Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, continuiamo a parlare di inquinamento acustico con Gaetano Licitra, che è uno degli esponenti del board europeo che si occupa di questi temi, docente di acustica a Pisa. Buonasera Licitra. Buonasera Melis. Questa sera vogliamo cercare di capire un po' meglio quali sono gli strumenti per combattere il rumore, soprattutto in città. Città che talvolta ha anche delle caratteristiche sue intrinseche per cui può peggiorare l'effetto di alcune fonti di disturbo. Licitra. Diciamo, se abbiamo una sorgente in nostra prossimità, il suono si propaga in maniera diretta. Se invece abbiamo un ambiente complesso, il suono si riflette. La riflessione del suono provoca quello che magari nelle aule grandi possiamo avvertire, cioè il rimbombo. Quindi un effetto particolare si ha nelle strade strette, nei canyon. Allora lì il suono ha un livello più elevato. Per esempio, oppure, ai piani anche alti, quando ci sono delle file di edifici che si guardano, si fronteggiano, no? Ai lati della strada, anche ai piani alti il rumore è molto elevato, non solo al piano terra. Si riflette sulle pareti e continua a riflettersi fino a quando non viene assorbito. Non ci sono assorbitori, rimane lì. Altri fenomeni che ci possono interessare sono il fatto che il rumore cambia moltissimo anche se ci spostiamo di poco, cioè se siamo dietro un muro sentiamo molto meno rumore. Quindi il suono ha questa caratteristica, il fatto che è facilmente schermabile. E qui stiamo andando naturalmente sui modi appunto per intervenire. Come si fa a rendere un po' più acusticamente piacevole una città, un quartiere, una via? Allora, generalmente noi abbiamo tre possibilità. O agiamo sulla sorgente e quindi riduciamo il rumore che produce. O agiamo sulla propagazione, quindi ci mettiamo qualcosa in mezzo che possa, diciamo, ridurre il rumore che arriva al recettore. Oppure lavoriamo sul recettore stesso, cioè lo proteggiamo. Quindi mettiamo i tappi, sorgente possiamo ridurre il rumore degli autoveicoli e quindi il rumore che gli autoveicoli producono si fa riducendo il rumore del motore o riducendo il rumore del rotolamento. E quindi bisogna cambiare le gomme, come si fa? Chiaramente, diciamo, il problema è quello di chi può agire. A livello europeo si può agire sulla certificazione dei veicoli. Siamo abituati a pensare ai veicoli con Euro 5, Euro 4, Euro 3 e così via, quindi con veicoli... Stessa cosa per il rumore che fanno. Per il rumore. Oppure si può lavorare, questo invece si può fare a livello locale, quindi non a livello europeo, migliorare la pavimentazione stradale. Già. Perché se io ho una pavimentazione stradale che non viene manutenuta, oppure ho un materiale che non assorbe oppure che genera molto rumore. Le crepe e le buche in particolare danno questi suoni, sono terribili per chi dorme. Pensate anche ai San Pietrini a Roma. Certo. Il San Pietrino di per sé produce 4 decibel in più di una pavimentazione normale, quindi vuol dire è come se passasse il doppio delle macchine, certo, al minimo. Se io invece utilizzo le pavimentazioni stradali che sono o a bassa emissione, cioè producono meno rumore, oppure addirittura fonoassorbenti, cioè assorbono il rumore, io riduco il rumore alla sorgente. Poi, barriere. Le barriere possono essere di tanti tipi, noi siamo abituati a vedere quelle nelle strade extraurbane. Sì. È chiaro che la barriera ha senso se non è a ridosso dell'abitazione, perché se è vicino all'abitazione la persona che ci abita non vede più il sole. Sì, sì, no, poi la barriera è bruttina, in più immagino che sia anche costosetta, non sono degli oggetti. La barriera, diciamo, i costi della barriera possono cambiare dai 1.000 ai 3.000 euro a metro lineare con un'altezza di 3 metri, quindi 3 metri quadri, mettiamola così. Però, diciamo, questo dipende dalle caratteristiche stesse della barriera. Ci sono barriere brutte, che sono quelle che vediamo nelle autostrade, spesso quelle verdi, barriere più complesse ma anche di migliore qualità. Poi ci sono quelle trasparenti, quindi ci sono barriere assorbenti che assorbono il suono che arriva e barriere riflettenti che invece lo riflettono e basta. Il verde urbano ha una funzione dal punto di vista dell'abbattimento? Allora, recentemente ci sono molti studi sull'importanza del verde urbano, perché il verde ha non solo un effetto benefico dal punto di vista psicologico, se noi non vediamo la sorgente si riduce il nostro fastidio, mettiamola così. Il verde può essere utilizzato per assorbire il suono. Sì, infatti. Un bel prato verde, questo assorbe molto di più di una superficie speculare che invece lo riflette e basta. Quindi il verde, adesso ci sono anche altri tentativi per fare delle barriere verdi basse, molto vicine alla strada, anche queste possono essere efficaci. Comunque diciamo che il fatto interessante è che il verde dà un sacco di contributi su moltissimi aspetti, se ne parla in fondo poco nell'ambito smart, io lo trovo, siamo una delle robe più intelligenti e anche qua darebbe una mano. Ulteriori applicazioni potrebbero essere anche di mettere diciamo il verde sugli edifici alti, perché anche questo assorbirebbe suono e ne impedirebbe la riflessione del suono, quindi ridurrebbe il problema che dicevamo prima del rimbombo, insomma, nei canyon. Grazie Licitra, ancora una volta però a domani, perché dobbiamo parlare di quello che dovrebbero fare, per lo più non fanno, le pubbliche amministrazioni rispetto a questo tema. A domani.